Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, parliamo di una smart card stasera che le Poste Italiane hanno progettato per il comune di Roma. Si chiama Carta Roma e serve in prima battuta ad erogare tutta una serie di servizi soprattutto ai cittadini meno abbienti. Per parlarcene Federico Pedrocchi ha incontrato Alessandro Leonardi, responsabile del progetto Smart City di Poste Italiane. Sentiamo. Leonardi, buonasera e benvenuto a Smart City. Buonasera agli ascoltatori. Allora, siamo qua tutti e due davanti a una slide, insomma, quindi un'immagine proiettata dove ci sono un sacco di scritte che riguardano le funzioni svolte da Carta Roma. È un progetto del comune, c'è stato un bando e voi di Poste Italiane avete realizzato questa carta che fa parecchie cose. Cominciamo a dirne un po'? Sì, dunque, Carta Roma è un progetto, concretamente uno strumento che permette ad 1 milione di cittadini del Comune di Roma, identificati dal Comune appartenenti a categorie meno abbienti, quindi pensionati e nuclei familiari con redditi bassi, di poter fruire attraverso la carta di un circuito di esercizi commerciali di vario genere, dall'alimentare all'abbigliamento, ma anche le utilities, quindi alle realtà che sono, diciamo, erogano le utenze domiciliari, di dare appunto degli sconti concreti in bolletta. In più, questa carta dà un supporto concreto a quelle che sono anche le politiche sociali del comune, perché permette l'accredito di quelli che sono le elargizioni che il comune fa verso le categorie meno abbienti, essendo dotata questa carta di un codice IBAN, e quindi permette al comune automaticamente di accreditare quelle che sono le somme che a seconda delle politiche sociali in corso vengono dedicate, diciamo, a questi cittadini. Inoltre la carta però si rivolge anche a ben oltre 1 milione di abitanti, poiché è stato fatto un mailing di diffusione dell'iniziativa, dando l'opportunità anche a chi non è dentro il milione di target prioritario, dando la possibilità di sottoscrivere la carta, fruire degli sconti, sempre con la possibilità di andare presso esercizi commerciali che sono pubblicizzati sul sito del Comune di Roma e sono pubblicizzati anche nella brochure che viene rilasciata al momento della sottoscrizione. Come viene rilasciata? Sui 400 uffici postali che insistono sulla città di Roma, presentandosi con le credenziali e con la comunicazione ricevuta dal Comune. E quindi anche questo aspetto della distribuzione, cioè del raggiungimento della popolazione, qui viene fuori l'utilità di avere una rete di uffici postali. 400 in un'area sono molto fitti. Però le chiedo in generale, questa carta poi è anche una carta di credito, no? Per esempio, quindi ha anche una serie di funzioni classiche di molte carte, però le chiedo in generale, non tanto quindi parlando di Roma, una carta così potrebbe avere sopra un numero di servizi illimitati, insomma pagare i biglietti per entrare ai musei, magari per i pensionati lo sconto al cinema, mi domando, non c'è limite? Beh sì, effettivamente è un supporto sul quale si possono ampliare i servizi che già oggi noi come Poste Italiane facciamo per esempio in altre città. Cito per esempio il caso di Comune di Milano o del Comune di Ravenna, dove la carta Poste Pay & Go è una carta dove viene caricato l'abbonamento che permette l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. Cito invece la situazione di altre città dove stiamo in sperimentazione per dare la possibilità di accedere per esempio al circuito museale. È ovvio che permette quindi la possibilità di dare un completo set di servizi non solo al cittadino, ma pensiamo anche al turista, che è un'altra categoria che riempie le nostre città e che ha necessità di servizi intelligenti, servizi smart. Perché, per essere chiari, una singola carta può essere usata in modo diverso da pubblici diversi, quindi anche un turista, un non residente può prendere la stessa carta, è così, no? Sì, assolutamente sì, abbiamo carte che sono nominative, carte che sono addirittura non nominative, che possono essere quindi al portatore. Anche nel mondo dei convegni e dei viaggi aziendali possono essere utilizzati dei supporti come quelli che forniamo noi. Solo che questo effetto di aggiunta di pubblici sulla stessa carta abbatte i costi di gestione. abbatte i costi di gestione, anche perché poi ricordiamoci che l'evoluzione è che passare da una carta ad una SIM di telefono. E quindi l'invito pressante lo faccio io, e cioè cerchiamo il più possibile di condividere strategie e strumenti in modo da avere effetti di scala importanti. Vale la pena di sottolineare un punto prima di lasciarci, che poi è quello messo in luce da Federico Pedrocchi nell'ultima battuta dell'intervista. Diciamo così, una smart card è un po' come una cassettiera. In ogni cassetto ci potete mettere un'identità, una funzione diversa. La vostra identità sanitaria, la vostra identità in quanto utente della raccolta dei rifiuti, in quanto frequentatore di cinema o in quanto abbonato ai mezzi pubblici. E così come accade per una cassettiera, il cui costo non varia se voi la riempite più o meno di scartoffie, lo stesso accade per una smart card: il costo non cambia se voi ci mettete poche o tante identità. Insomma, l'ideale è riempirla per bene questa smart card prima di comprarne un'altra. Invece il rischio è un proliferare di carte intelligenti, salvo che questo proliferare di intelligente avrebbe proprio poco. Noi ci lasciamo qui, appuntamento a domani.